Cari fratelli e sorelle, anche oggi, continuando il nostro itinerario che sta seguendo le tracce dei padri della Chiesa, incontriamo una grande figura, San Cirillo di Alessandria, legato alla controversia cristologica che portò al Concilio di Efeso del 431 e ultimo rappresentante di rilievo della tradizione alessandrina. Nell'Oriente greco, Cirillo fu più tardi definito custode dell'esattezza, da intendersi come custode della vera fede, e addirittura sigillo dei padri. Queste antiche espressioni esprimono bene un dato di fatto che è caratteristico di Cirillo, e cioè il costante riferimento agli autori ecclesiastici precedenti, con lo scopo di mostrare la continuità della propria teologia con la tradizione. Si inserisce volutamente, esplicitamente, nella tradizione della Chiesa come garante della continuità con gli Apostoli, con Cristo stesso. Venerato come santo sia in Oriente che in Occidente, nel 1882 San Cirillo fu proclamato dottore della Chiesa dal Papa Leone XIII, il quale contemporaneamente attribuì lo stesso titolo anche ad un altro importante esponente della patristica greca, San Cirillo di Gerusalemme. Si rivelavano così l'attenzione e l'amore per le tradizioni cristiane orientali di quel Papa, che in seguito volle proclamare dottore della Chiesa anche San Giovanni Damasceno, mostrando così che la tradizione orientale e occidentale è la dottrina della unica comune Chiesa di Cristo. Le notizie sulla vita di Cirillo prima della sua elezione alla sede di Alessandria sono pochissime. Sappiamo che era nipote di Teofilo, che dal 385 resse la diocesi alessandrina. Lui stesso, Cirillo, nacque probabilmente in questa metropoli egiziana tra il 370 e il 380, venne presto avviato alla vita ecclesiastica e ricevette una buona educazione sia culturale che teologica. Nel 403 era a Costantinopoli a seguito del potente zio e qui partecipò al sinodo detto della Quercia, che depose il vescovo della città, Giovanni Crisostomo, segnando così il trionfo della sede alessandrina su quella di Costantinopoli, dove risiedeva l'imperatore. Alla morte dello zio Teofilo, l'ancora giovane Cirillo del 412, fu eletto vescovo della sua chiesa, che governò con grande energia per 32 anni, mirando sempre ad affermarne il primato in tutto l'Oriente, forte anche dei tradizionali legami con Roma. Due o tre anni dopo, il vescovo di Alessandria si dimostrò realista nel ricomporre la rottura della comunione con Costantinopoli. Ma il vecchio contrasto con questa sede si riaccese una decina di anni più tardi, quando nel 428 vi fu eletto Nestorio, un autorevole e severo monaco di formazione antiochena. Questo nuovo vescovo di Costantinopoli suscitò presto opposizione, perché nella sua predicazione preferiva per Maria il titolo Madre di Cristo e era contrario a quello già molto caro alla devozione popolare di Madre di Dio. Motivo di questa scelta del vescovo Nestorio era la sua adesione alla cristologia antiochena, che per salvaguardare l'importanza della umanità di Cristo finiva per affermare la divisione della divinità e così non era più vera unione tra Dio e uomo in Cristo, naturalmente non si poteva più parlare della madre di Dio. La reazione di Cirillo fu quasi immediata e si dispiegò con ogni mezzo già dal 429, rivolgendosi anche con alcune lettere allo stesso Nestorio. Nella seconda leggiamo una chiara affermazione del dovere dei pastori di preservare la fede del popolo di Dio. E questo era un suo criterio e rimane un criterio. La fede del popolo di Dio è espressione della tradizione della Chiesa, un criterio per la dottrina. E così scrive a Nestorio: bisogna esporre al popolo l'insegnamento della fede nel modo più irreprensibile e ricordare che chi scandalizza anche uno solo dei piccoli che credono in Cristo subirà un castigo intollerabile. Nella stessa lettera a Nestorio, Cirillo descrive con chiarezza la sua fede cristologica dicendo così: affermiamo che sono diverse le nature che si sono unite in una vera unità, ma da ambedue è risultato un solo Cristo e Figlio, non perché a causa dell'unità sia stata eliminata la differenza delle nature umana e divina, ma piuttosto perché divinità e umanità, riunite in un'unione indicibile e inenarrabile, hanno prodotto per noi il solo Signore Cristo, il Figlio di Dio. E questo è importante, che realmente la vera umanità e la vera divinità si uniscono così, che in Cristo sono uniti in una sola persona, il nostro Signore Gesù Cristo. Cirillo continua: professeremo un solo Cristo e Signore, non nel senso che adoriamo l'uomo insieme con Logos, per non insinuare l'idea della separazione, ma nel senso che adoriamo uno solo e lo stesso, perché non è estraneo a Logos il suo corpo, col quale siede anche accanto a suo padre, non quasi che gli seguano accanto due figli, bensì uno solo unito con la propria carne. E presto Cirillo, grazie ad accorte alleanze, ottenne che Nestorio fosse condannato da parte della sede romana e infine dal concilio a Efeso nel 431, il terzo ecumenico. Questa assemblea ecumenica si concluse con il primo grande trionfo della devozione a Maria e con l'esilio del vescovo costantinopolitano, che non voleva riconoscere alla Vergine il titolo di Madre di Dio a causa di una cristologia sbagliata, di una divisione in Cristo stesso. Dopo aver così prevalso sul rivale, sulla sua dottrina, Cirillo seppe però giungere, già nel 433, a una formula teologica di compromesso e di riconciliazione con gli antiocheni. E questo è anche significativo, che da una parte la chiarezza della dottrina della nostra fede, ma anche la ricerca intensa della unità e della riconciliazione. Negli anni seguenti si dedicò in ogni modo a difendere e a chiarire questa posizione fino alla morte, sopraggiunta il 27 giugno del 404. San Cirillo ha scritto moltissimi libri, ma non vorrei adesso parlare su questo, ma sulla somma di quanto lui ci insegna. La somma è che la fede cristiana è innanzitutto incontro con Gesù, una persona che dà alla vita un nuovo orizzonte. di Gesù Cristo, Verbo di Dio incarnato, San Cirillo è stato un instancabile e fermo testimone, sottolineandone soprattutto l'unità, come ripete ancora una volta nel 433, nella prima lettera al Vescovo Succenso, dove scrive: uno solo è il Figlio, uno solo è il Signore Gesù Cristo, sia prima dell'incarnazione sia dopo l'incarnazione. Infatti, non era un figlio il Logos nato da Dio Padre e un altro quello nato dalla Santa Vergine, ma crediamo che proprio colui che prima dei tempi è nato, anche secondo la carne, da una donna, ed è presente sempre, secondo la sua promessa, con noi fino alla fine dei tempi. E questo è importante: il Dio eterno è nato da una donna e rimane con noi ogni giorno. In questa fiducia viviamo, in questa fiducia troviamo la strada per la nostra vita.